Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Dune e sabbia. Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castel Porziano e Torvaglianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Da una parte la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rade. Poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e ville lussuose fanno della zona il luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale, negli anni 50. Vilma Montesi è una ragazza normale, conduce una vita alla luce del sole, ha molti amici, le piace divertirsi. Il pomeriggio del 9 aprile 1953, verso le 17. Vilma Montesi si reca a Ostia, prende il treno. Alla sorella Wanda il giorno prima chiede di accompagnarla ad Ostia per curare nell'acqua salata un arrossamento al calcagno dovuto ad un paio di scarpe nuove. Ma a casa Vilma Montesi non tornerà mai più. 11 aprile 1953. È un sabato mattina, livido e nuvoloso. Il corpo di Vilma Montesi viene ritrovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare scrivono un verbale sul ritrovamento della donna. Vilma Montesi è riversa sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie. Indossa solo camicetta e mutandine, non indossa gonna e reggi calze di raso nero. Sul corpo non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce la causa del decesso: annegamento. La morte risale ad almeno 24 ore prima. Il 16 aprile 1953 il questore della capitale, Saverio Polito, inoltra alla magistratura il rapporto dei suoi funzionari della squadra mobile. Vilma Montesi ha avuto un malore durante il pediluvio. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia l'inchiesta come incidente. E proprio in quel preciso momento la morte della donna diventa il caso di Vilma Montesi. Una combinazione di malcostume e intrighi politici che provoca la più grande crisi politica della Prima Repubblica. Ma com'era l'Italia del 1953? Maurizio De Luca, giornalista e scrittore. L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale, che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole. Un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano. Vilma Montesi nasce a Roma nel 1932. Quando viene ritrovata morta sulla spiaggia di Capocotta, ha 21 anni, fa la modella. È figlia di un falegname, fidanzata con un poliziotto in servizio a Potenza. Abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento. Chi la conosce la definisce una brava ragazza. Per me era una brava ragazza, io non posso dire niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella. Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola. Trascorrono alcuni mesi, la vicenda è ormai quasi dimenticata. Un piccolo settimanale scandalistico, Attualità, diretto da Silvano Muto, il 6 ottobre 1953 riporta a galla il caso di Vilma Montesi. Notizie vaghe, prive di riscontri oggettivi, ma piene di messaggi politici precisi. Il reportage scandalistico porta un titolo a 9 colonne: La verità sulla morte di Vilma Montesi. e una copertina dove una coppia è ripresa di spalle con le braccia alzate e illuminata dai fari di un'automobile. Il giornale accusa d'aver lasciato morire la ragazza Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni, probabile successore di Alcide De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, Vilma Montesi si è sentita male per abuso di stupefacenti durante un festino nella riserva di caccia a Capocotta di Ugo Montagna, marchese, uomo da sempre vicino alla Democrazia Cristiana. Tutto ruota intorno alla figura di Attilio Piccioni, uomo influente nella geografia politica della Democrazia Cristiana, come conferma il giornalista e scrittore Maurizio De Luca. Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma a questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose, ma, e se ne andò. Questo è la testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana. Il rapporto riservato dei carabinieri, voluto da Amintore Fanfani, allora ministro degli interni e rivale di Attilio Piccioni, scavalca di fatto l'inchiesta della polizia. I carabinieri scrivono. Ugo Montagna organizza festini e orge con donne di dubbia moralità, allo scopo di soddisfare i piaceri e i vizi di tante personalità del mondo politico. Vilma Montesi diventa così la ragazza del pediluvio, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra, come ricorda Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore del libro Il caso Montesi per Marsilio Editore. Ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una. Lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso. Scrive nel suo libro Francesco Grignetti. Un giornalista che ripercorre una vicenda di cronaca a 50 anni di distanza dai fatti rispetto ai suoi predecessori sa di avere un solo vantaggio. Può andare a curiosare negli archivi della polizia che sono conservati all'Euro a Roma. E lì, all'archivio di Stato, ho trovato una funzionaria che si è appassionata con me alla storia di Vilma. Mi ha aiutato ad orientarmi negli indici. Alla fine, nel posto più impensato, e cioè fra tonnellate di autorizzazioni al porto d'armi, licenze per la vendita d'alcol e rinnovi del passaporto, sono saltati fuori due faldoni di carte dell'epoca. Centinaia di fogli rigorosamente con la stampigliatura «segreto», nascosti sapientemente al posto sbagliato, che raccontano di come il Ministero dell'Interno, ad un certo punto, perse la testa di fronte ad un'inchiesta che non sapeva più troncare e sopire, sotto l'incalzare dei giornali e di un giudice che per la prima volta in Italia aveva scoperto il gusto di procedere controcorrente. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica e travolge l'aristocrazia romana e il mondo della politica, come sostiene Francesco Grignetti. Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista, che era la corrente di Scelba, Piccioni, Spataro e diciamo i democristiani di destra, tra virgolette, in un aspro confronto per contendersi l'eredità dei Castelliani. Tra poco, dopo la pausa, torna il caso Montesi su Giallo e Nero. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Il giornalista Silvano Muto viene denunciato per aver pubblicato notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Prima ritratta dicendo che l'articolo è una personale ricostruzione fantasiosa, poi Silvano Muto conferma la prima ricostruzione dei fatti. Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico giornalistico romano, altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa, alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me. Al processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa, Silvano Muto porta come testimoni della difesa l'elegantissima figlia di un notaio milanese, Anna Maria Moneta Caglio, soprannominata Cigno Nero, ex amante del marchese Ugo Montagna. La Caglio accusa Piero Piccioni di aver ucciso Vilma Montesi, di averla trasportata sulla spiaggia. Secondo la deposizione di Anna Maria Moneta Caglio, Piero Piccioni è amico intimo di Ugo Montagna e tutti e due hanno rapporti d'affari con il capo della polizia, Tommaso Pavone. Tramite l'interessato aiuto del questore di Roma, Saverio Polito, sono riusciti ad occultare le prove del delitto. Ma chi è Anna Maria Moneta Caglio? Secondo il suo racconto è una donna ambiziosa che arriva a Roma per fare l'attrice. Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per metter su casa. E, insomma, sembra che fossi una bella ragazza quando ero già andata a Roma precedentemente. Mi ha detto, ma perché non fa un film, perché non fa un film così bello? E io ho detto, beh, adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno, mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, poste telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone, e l'altra per Andreotti, però non glielo. Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, è autore per Longanesi del libro Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica, dove il caso di Vilma Montesi è uno dei più esplorati. L'impressione è che il povero Piccioni, forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma è espulso dal consesso civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese. Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste e gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 non parla d'altro, secondo il giornalista e scrittore Francesco Grignetti. c'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano, ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente insomma c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità, insomma c'è anche la televisione, anche insomma il 54, l'anno del Casamontesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia. Il ministro Piccioni si dimette il 19 settembre 1954, appena ritirato il passaporto al figlio. Piero Piccioni viene arrestato 2 giorni dopo per concorso in omicidio colposo e uso di stupefacenti. Ugo Montagna, accusato di favoreggiamento, si costituisce direttamente in carcere. L'ex questore di Roma, Saverio Polito, riceve dalla magistratura un mandato di comparizione. L'accusa per lui è grave: depistaggio nell'inchiesta sulla morte di Vilma Montesi. Il 15 ottobre 1954, nemmeno un mese dopo, Piccioni, Montagna e Polito vengono scarcerati, ma rinviati a giudizio a piede libero. Le udienze del processo per la morte di Vilma Montesi vengono rinviate fino al 21 gennaio 1957 e hanno luogo a Venezia. Durante il dibattimento viene preso in considerazione l'alibi di Piero Piccioni. Nei giorni precedenti la morte di Vilma Montesi, il musicista si ritrova a Rovello, sulla costiera amalfitana, con l'attrice Alida Valli, che testimonia a suo favore. Piccioni torna a Roma il 9 aprile 1953 con un forte mal di gola. Viene curato dal professor Filippo. Il 27 maggio 1957, come previsto, gli imputati vengono assolti con formula piena. Rinviati a giudizio per calunnia Silvano Muto e la testimone Anna Maria Moneta Caglio vengono condannati il 17 febbraio 1964. Nel dispositivo della sentenza torna la tesi del pediluvio, ma ormai la speculazione politica è passata e l'enigmatica fine di Vilma Montesi non occupa più le prime pagine dei giornali. Il senatore a vita Giulio Andreotti segue da vicino le tappe dell'inchiesta e del processo. Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane, che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio. Il caso di Vilma Montesi segna una novità per la città di Roma. Per la prima volta i romani si appassionano ai fatti di cronaca nera, leggono, si informano, le pagine scandalistiche vanno a ruba. La morte di quella giovane donna fa voltare le spalle al potere, come sottolinea in conclusione il giornalista e giallista Enzo Rava. Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi, perché per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato, anni e anni e anni dopo, che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Quella volta la gente che ha